the road, mighty Midland Shore. I don't know my go, I did it bamboo. And in all the light it changes, I'd go to my member. Tutte le ricchezze dell'Egitto, l'oro della Macedonia, i tesori di Babilonia, i libri di Alessandria, tutte le strade convergono ai tuoi piedi, principessa di ogni inizio, di ogni fine, di tutti i reami, apocalisse per ogni essere impuro. Danzatori celebrano le tue notti, mentre giullari giubilano il tuo nome. Nel cielo libero vola un aquilone. Piogge di diamanti come gocce dal cielo, estati di temporale, di gioia sul tuo seno. Inondano i tuoi fiumi di oro l'universo, al semplice volere del tuo fertile sguardo. Ecco il tuo specchio, donna eterna dea, tropico dell'aurora, alba di ogni nuova idea. Il tuo miracolo sposa l'indecifrabile sorriso, sorgente anfora antifona di ogni paradiso. Limpide foglie boreali, punte di raso, avvolgono il tuo corpo, il tuo profilo dorato. Gioisci e celebra il tuo trionfo, a pochi è dato il prestigio. In questo giorno il mondo si inchina a chi ha il volto illuminato. I pastori della Mongolia, le donne libere della Siberia, aspettano un tuo segno, il segno della vittoria. Non ti stare a preoccupare, sei più bella di ogni luna, e dalla tua bocca nascono rose e seminano fortuna. Tu sei nata sotto al sole, sotto un mantello di stelle regina. Tu sei la guida che aprirà al mondo una nuova strada. Thank you. delta di ogni oceano, abisso di ogni cima. È qui che vive il tuo nome, libertà, la tua capigliatura. La neve ti vestirà e le nuvole, i tuoi cuscini, saranno i cieli limpidi ad illuminare i viali dove poserai i piedi. Nasceranno prati, chiunque ti vedrà avrà nel cuore mille fiori.